2024 di Enrico Pagliarini. Ed eccoci di nuovo insieme, bentornati o benvenuti a 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Potete raggiungerci scrivendoci una email 2024@radio24.it oppure utilizzando Facebook o Twitter. Iniziamo con una notizia che arriva dagli Stati Uniti. Entro il 1 settembre 2022 tutte le automobili vendute in America dovranno essere dotate del sistema di frenata d'emergenza autonoma. L'introduzione di questa tecnologia è il frutto di un accordo firmato fra 20 case automobilistiche, quindi praticamente tutte quelle che occupano il mercato mondiale, e dalla National Highway Traffic Safety Administration, che è l'agenzia che si occupa della sicurezza sulle strade americane. Già oggi questi sistemi sono diffusi nelle auto di fascia più elevata, ma sono disponibili come optional in automobili di medio livello. In molti casi con poche centinaia di euro si compra un sistema che si basa su varie tecnologie, radar, telecamere oppure laser, che funzionano in vario modo ma fanno sostanzialmente tutti la stessa cosa. Allora avvisano il conducente e possono poi anche frenare in modo automatico se il conducente non interviene. Questi sistemi di frenata d'emergenza oggi funzionano fino ad una velocità di 60-80 km all'ora mediamente, ma nel giro di pochi anni saranno in grado di accorgersi di un ostacolo fermo anche a velocità più elevate. A velocità più elevate queste tecnologie oggi funzionano come cruise control adattivo, cioè per mantenere la distanza di sicurezza. Quindi tecnologie già diffuse sulle automobili che saranno obbligatorie negli Stati Uniti a partire dal 2022. Pensavo anche prima, però evidentemente soprattutto nelle automobili di fascia medio-bassa ci sono problemi di costi. Prima delle nostre digital news, una notizia che riguarda il consolidamento del mercato della telefonia mobile. Sapete che Tre e Wind hanno annunciato le loro nozze, però questa settimana Massimo Ibarra, che è l'amministratore delegato di Wind, Infostrada Wind, ha detto che la fusione tra le due società è un processo che richiede più tempo del previsto. Allora, rispetto al termine di fine marzo si andrà oltre e dentro la fine di questo mese dovrebbe arrivare un primo riscontro, diciamo un parere preliminare dell'antitrust europeo, ma l'ok definitivo, se ci sarà un ok definitivo, comunque il parere definitivo, dovrebbe arrivare invece entro la fine dell'anno. Allora, i timori sono condivisi in tutta Europa da altre autorità e da molti esperti e sono relativi alla riduzione della competizione sul mercato, perché se da quattro operatori si passa a tre operatori è evidente che si riduce la competizione, ma poi bisogna fare un'analisi di tutto il mercato e quindi se si riducono gli operatori c'è la possibilità che ci sia un aumento delle tariffe. E io sono d'accordo con quelli che dicono che di sicuro non ci sarà più così tanta competizione sulle tariffe. È anche vero che non bisogna guardare solo al prezzo ma anche alla qualità dei servizi. Questa settimana SOS Tariffe ha fatto un'analisi sulle offerte di telefonia mobile comprensive di dati in Europa e il paese più economico è la Finlandia in Europa, ma l'Italia è sesta, quindi non è messa malissimo. Infatti devo dire che negli ultimi anni sicuramente sul fronte prezzi c'è stata una competizione che ha favorito l'abbassamento dei prezzi, ma su questo ci sono tantissimi dati, tantissime statistiche che lo dimostrano. Prima delle nostre digital news, un ultimo accenno a quello che succederà la prossima settimana. Potrebbe essere una settimana interessante perché per quanto riguarda il caso che contrappone Apple e l'FBI, il processo si aprirà il 22 marzo e il giorno prima Apple terrà un evento per presentare nuovi prodotti. Le due cose naturalmente non sono collegate, l'unica cosa che le collega è il fatto che protagonista sia l'Apple, però vedremo la prossima settimana che cosa succederà. Digital News. Digital News. Iniziamo dalla radio digitale. LG ha presentato questa settimana il nuovo smartphone Stylus DAB Plus. È il primo smartphone al mondo con sintonizzatore per la radio digitale, quindi la digital radio. Si può ascoltare anche la radio digitale diffusa via etere e non solo quelle via internet, e collegandolo ad un'autoradio, una vecchia autoradio, si può trasformare, quindi rinnovare la propria autoradio in automobile. Sarà sul mercato in Italia entro un mese. Digital News. Dopo Oculus Rift e HTC Vive. Il terzo importante player nel nascente settore della realtà virtuale è Sony, che questa settimana ha annunciato prezzo e data di uscita del PlayStation VR. Sarà disponibile a ottobre a 399€. Entro un anno Sony ha dichiarato che ci saranno almeno 50 giochi giocabili in realtà virtuale. E a proposito di realtà virtuale e di contenuti, perché questo è un altro aspetto molto importante, vale per i televisori 4K o in HD, se poi non ci sono i contenuti a cosa servono? E quindi anche qui, se ci sono i visori ma se non ci sono i contenuti, invece Sky ha annunciato la creazione di una unità chiamata Sky VR Studio per la produzione di eventi sportivi o di altro genere e anche film da vedere all'interno di un visore come Oculus. E Sky è uno dei primi grandi broadcaster ad annunciare la produzione di contenuti. Allora, in programma per il momento ci sono 20 produzioni nel 2016. Verranno distribuite inizialmente sulla piattaforma Facebook 360 e in futuro anche su un'app realizzata appositamente da Sky. Sky Italia mi ha detto e mi ha assicurato che ci sono operazioni del genere anche in Italia, quindi anche l'Italia, anche Sky Italia sta andando in questa direzione e presto ci racconteranno quello che sta succedendo. Apple ha deciso di spostare parte dei servizi iCloud su Google Cloud, preferendo questo servizio ad Amazon Web Services, che è il numero uno al mondo con attualmente il 57% di quota di mercato, e poi c'è al numero due Azure di Microsoft, che ha il 17% di quota di mercato nel mondo. Su queste due piattaforme Apple continua a mantenere una presenza e non è escluso che tutto venga gestito internamente nel futuro grazie ai tre nuovi data center che verranno costruiti oltre ai quattro attuali. Ovviamente non tutti i servizi iCloud sono su data center esterni, ovviamente sono un po' su questi quattro. E comunque, per quanto riguarda Google, si tratta del secondo importante colpo nel giro di un mese, perché a Google si è rivolta recentemente anche Spotify, che ha trasferito i propri contenuti da Amazon Web Services. Google aveva fino a poco tempo fa, fino a prima di questi annunci, il 6% del mercato del cloud mondiale. Chiudiamo con i pagamenti peer-to-peer. Allora, Giphy, che è uno dei principali sistemi italiani per inviare e ricevere denaro in tempo reale fra due smartphone, è già stato adottato da 23 banche e ha superato 300.000 utenti registrati. Il valore medio della singola transazione è pari a 44€. Ricordiamo che per attivare Giphy basta avere un conto corrente di una delle banche abilitate. Adesso parliamo di video on demand. Questa settimana è stata presentata un'analisi sull'uso del video on demand in Italia, realizzata da Nielsen. Giovanni Fantasia è l'amministratore delegato di Nielsen Italia. La prima domanda che abbiamo fatto a Fantasia è: che cosa intendono per video on demand? Anche il video che io guardo su internet, su YouTube ad esempio? No, non è on demand, nel senso che non c'è una programmazione, una scelta, quello è una fruizione di video, diciamo di contenuto video generato dagli utenti, e quindi non è video on demand nell'accezione in cui che intendiamo noi. Sì, quindi avete rilevato tutti i servizi proposti da o su internet o attraverso decoder di vario genere, comunque proposti in un formato quasi come fosse una specie di palinsesto all'interno del quale io poi scelgo. Esattamente, palinsesti personalizzati o palinsesti all'interno dei quali è possibile scegliere. Senta, le faccio, prima di farle raccontare l'immagine insomma che voi avete ricavato del panorama italiano, un parere sull'offerta. C'è già un'offerta interessante, paragonabile agli altri mercati, o siamo ancora un po' indietro? No, l'offerta, diciamo, magari siamo leggermente indietro rispetto agli altri mercati più avanzati, dove l'utilizzo del video on demand è più avanti, però dal punto di vista di offerta, soprattutto se si parla di serie TV o documentari, siamo avanti, siamo messi bene. E che cosa avete, quali sono i dati principali che avete rilevato? Ma allora, quello che noi rileviamo in termini di persone che accedono al video on demand, abbiamo rilevato che un 36% dalla nostra Global Video on Demand Survey, 36% di italiani connessi ad internet usufruisce dei video on demand. Quando parlate del 36% intendete di quelli che sono collegati a internet o in generale proprio degli italiani? Sono 36% delle persone collegate ad internet. È una buona percentuale o no? Sì, è una buona percentuale. In altri paesi, ovviamente, sono la media europea è del 50%, a livello globale 65%, però diciamo, non siamo molto distanti, anche se la differenza in effetti c'è. Voi fate un riferimento ai player alternativi, scrivendo per esempio Netflix, non so quali altri, sì, beh, ci sono tanti altri, Chili ad esempio, immagino. Perché li chiamate alternativi? Alternativi a che cosa? A quelli che noi conosciamo più tradizionali, come il mondo Sky, Premium, eccetera. Sono player che si stanno affermando in questo momento e stanno crescendo, rappresentano ancora una piccola percentuale e quindi rappresentano anche un'offerta alternativa a quella alla quale siamo stati abituati negli ultimi anni. Sì, potrebbe succedere che nei prossimi anni non siano più alternativi ma siano i principali. Potrebbe succedere, non so se saranno i principali, ma potrebbe succedere sicuramente, è un fenomeno in crescita. Molto dipenderà anche dai contenuti e dalla disponibilità dei contenuti stessi. Le faccio un'ultima domanda sulla possibile offerta futura di questi servizi. Lei pensa che la gran parte dei servizi on demand rimanga all'interno di piattaforme che quindi hanno un vasto catalogo o vedremo sempre più offerte anche di singoli editori? Faccio un esempio, la MotoGP, se uno vuole, la può vedere su internet abbonandosi attraverso il canale della MotoGP. Quindi potrei pensare che domani un produttore di serie televisive metta a disposizione la propria serie televisiva direttamente su internet e non attraverso le piattaforme alle quali siamo abituati. Lei che cosa pensa? Ma io penso che tutto è collegato a come anche nel tempo la fruizione dei contenuti si è evoluta. È importante avere un marketplace dei contenuti dove c'è un numero di persone che accedono in numeri significativi per permettere poi eventualmente al mondo dell'advertising di poter sostenere economicamente anche questi canali. Quindi dipenderà molto anche dalle formule e dai modelli di business. È possibile semplicemente magari con una subscription o pay per view avere un servizio personalizzato di un canale specifico, se questo ha senso. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024 e radio24.it. Più tardi parleremo anche di reti e di come le reti di telefonia mobile, ma non solo, le reti wireless, potremmo dire così, si stanno trasformando grazie al software. Tutto diventa molto più flessibile, molto più economico. Ne parleremo nel corso di questa puntata. Ci occuperemo anche di commercio elettronico e di sicurezza. Questa settimana c'è stato un evento a Milano sulla sicurezza, Security Summit, e si è parlato anche di e-commerce. Questo è un tema molto importante. Dunque, adesso ci domandiamo che cosa cambia e come cambia il modo di insegnare, di educare, di studiare, come la tecnologia sta trasformando il mondo dell'istruzione. Allora, non vogliamo entrare nel dibattito sulla trasformazione della scuola italiana, troppo complicato, troppo complesso. Noi vogliamo parlare di tecnologia e ci facciamo aiutare da due esperti di tecnologia che lavorano nel settore dell'educazione e ovviamente della scuola. Saluto qui con me in studio Karen Nahum, che è Digital Director, quindi la responsabile delle operazioni digitali di De Agostini Scuola. Benvenuta 2024. Grazie. Come si dice, ladies first, prima le signore, prima le donne. Tra l'altro parleremo anche di tecnologia e di donne, visto che le donne sono storicamente meno appassionate di tecnologia, dicono che il 98% degli ascoltatori del 2024 sia un maschietto, però ne parleremo perché ci sono vari movimenti che tentano di estendere la passione per la tecnologia anche nel mondo dell'educazione e della scuola. Saluto anche Damien Lanfrai, che è il Chief Innovation Officer del Ministero che si occupa della scuola in Italia. Benvenuto. Grazie. Chief Innovation Officer, vorrei partire da qui perché è abbastanza strano sentire una persona che lavora in un ministero che ha una carica così digital e così moderna, da pochissimo sei stato nominato, giusto? Sì, è una carica nuova che un po', come si dice, mette al centro l'innovazione in particolare, soprattutto in realtà l'innovazione nello sviluppare tutte le politiche chiave del Ministero, no? Quelle che riguardano la crescita del capitale umano, quindi la formazione delle persone, lo sviluppo delle competenze, il rapporto tra scuola e lavoro e poi in particolare, insomma, un'attenzione specifica anche al tema educazione digitale. Sì, tu sei uno degli autori del piano scuola digitale, ma al di là del piano e di come poi il piano verrà implementato in Italia, ci sono sicuramente molte difficoltà, molti vincoli, insomma è anche un esperimento molto interessante, però al di là di questo, dal tuo punto di vista, cosa sta succedendo se partiamo e parliamo di tecnologia nel mondo della scuola, ma più in generale dell'educazione? Allora, sta succedendo un'esplosione indubbiamente di domanda di innovazione nella scuola a tutti i livelli, quindi una fase molto interessante, molto turbolenta, nel senso che non ha, le pratiche non sono necessariamente completamente consolidate, no? Cioè, sia a livello didattico che a livello di formati, modelli, piattaforme che assistono le scuole, gli studenti, docenti o insieme nelle pratiche quotidiane, quindi abbiamo proprio una vera esplosione di pratiche da tutte le parti. Proprio recentemente, questo weekend, ero a Dubai al Global Education Forum insieme come delegazione italiana e per esempio sono stato a un panel su venture capital che investono solo sul tema education technologies. Allora c'è tanta attenzione, tanto investimento e ancora poco consolidamento, però tantissima attenzione e questa cosa è, insomma, soprattutto da quando abbiamo lanciato il piano scuola digitale che ha dato un po' una botta definitiva, no? Un risveglio definitivo al mondo della scuola, sia per il tipo di investimento che per il tipo anche di claim politico che abbiamo fatto, sta succedendo questo anche nelle scuole, cioè adesso le scuole stanno cercando pratiche innovative, stanno sperimentando, stanno provando, non necessariamente ci riescono tutte le volte, ma è una buona fase, è una fase di inizio, di vero inizio dell'innovazione, una fase in cui usciamo da un momento in cui lasciavamo isolati gli innovatori, no? In cui avevamo gli innovatori in quei 100, 150, 200, 500 buone pratiche nel paese, adesso le altre 7500 scuole stanno agendo e si stanno muovendo anche loro verso l'innovazione e questa è una fase estremamente interessante. Sì, tra l'altro è una fase che con alcune punte di eccellenza però coinvolge un po' tutto il mondo, almeno il mondo occidentale, non stiamo parlando solo dell'Europa. Sì, visto che lo dici, faccio un esempio, il piano scuola digitale del governo francese è estremamente simile al nostro, cosa molto interessante, abbiamo scritto quasi contemporaneamente, tra l'altro non ci siamo neanche sentiti, però è molto simile al nostro, è un investimento strutturale. Nei prossimi 3 anni mettono più o meno la stessa quantità di risorse, investono più o meno nelle stesse aree, quindi insomma diciamo che c'è un'attenzione molto sinergica da parte dei vari paesi, infatti noi stiamo lavorando per costruire a livello europeo sinergie produttive in questo senso con i paesi che sono più o meno nello stesso stadio nostro, noi abbiamo da guadagnarci perché chiaramente partiamo sul tema digitale da un po' più indietro, ma abbiamo la possibilità, come accade nel digitale, di recuperare molto più terreno in una volta sola. Certo, e poi insomma avere il vantaggio di vedere quello che è stato fatto in altri ambiti. Vorrei chiedere a Karen Naum, dal punto di vista dell'editore, cosa cambia anche proprio entrando poi nello specifico di strumenti, hardware, software. Beh, voi fate sostanzialmente software perché l'editore, i libri diventano software fondamentalmente. E fondamentalmente si trasformano perché partiamo dai formati. Per anni al centro c'è stato il libro di carta. Adesso diventa un sistema, quindi anche per l'editore deve occuparsi di costruire sicuramente delle piattaforme, di innovare dei formati, per esempio pensiamo al video, di come anche la modalità di apprendimento cambia e si rafforza con questi strumenti. Siamo a Radio 24, quindi pensiamo all'audio, alla forza dell'audio anche per l'inclusione, per la possibilità di apprendimento e personalizzazione che dà il testo digitale o trattato attraverso dei software per le persone che hanno delle disabilità per poter seguire un programma scolastico. Per cui noi praticamente stiamo costruendo un sistema educativo, la chiamiamo la nuvola, dove a seconda delle velocità e delle possibilità sia di tecnologia all'interno delle scuole sia del livello di preparazione dei docenti, la possibilità di accedere a diversi strumenti che noi mettiamo a disposizione nella nostra offerta. Fammi un esempio di un libro. Allora, tutti sappiamo com'è fatto un libro, tutti sappiamo più o meno com'è fatto un libro scolastico, come si trasforma? Cioè oggi come diventa? Allora, esiste ancora la versione di carta e probabilmente rimarrà ancora per molto. Sì, perché comunque noi pensiamo a un sistema, nel senso che la carta ha ancora i suoi portati positivi per l'apprendimento ed rimane al centro del sistema. Però a fianco all'edizione cartacea noi a tutte le edizioni diamo l'edizione digitale, che non è un PDF ma è un libro veramente arricchito che dà la possibilità di accedere a degli esercizi, ai video, a delle mappe interattive, alla possibilità di mettere delle note, di condividere con la classe alcuni strumenti e di essere acceduto a everywhere, perché sia in versione app che web, che quindi non in sostituzione ma in integrazione. Quindi magari non ho il libro fisico a disposizione, voglio fare un esercizio piuttosto che ripassare un capitolo, ci posso accedere anche da mobile, che è un tema, perché gli studenti adesso magari non hanno il PC ma tutti hanno in mano un telefonino. Quindi noi in questo senso stiamo molto lavorando sull'interazione e l'ingaggio della nostra audience, perché gli studenti sono, oltre agli insegnanti, la nostra audience, con strumenti di questo tipo. Poi di recente abbiamo introdotto anche un'altra avvicinamento tra la carta e il digitale, che è la possibilità direttamente dal libro fisico con un telefonino di aprire dei video, per esempio, per accorciare le distanze e per sfruttare al massimo tutte le possibilità che vengono date dalla tecnologia. Senti, questi strumenti attualmente hanno già successo o stiamo veramente all'inizio? Quindi, perché noi ne abbiamo parlato anche 2024, ci sono effettivamente delle scuole che ormai sono diventate digitali completamente, abbiamo insomma raccontato alcune esperienze che sono eccellenze o comunque sono delle avanguardie di utilizzo della tecnologia, solo tablet, tutto digitale, condivisione insomma molto, molto spinta, ma in generale? Allora, diciamo che in generale, e poi sempre parlo dalla prospettiva dell'editore, i tassi di adozione sono incoraggianti, però ancora molto a macchia di leopardo e magari anche geograficamente diffusi in maniera non omogenea, per cui quello che vediamo è che il libro digitale, quello arricchito che serve, che ha tutta questa potenzialità anche di apprendimento ulteriore, viene usato sempre di più, quindi parlo di proprio tassi di attivazione dei libri digitali, però ancora l'utilizzo non è così diffuso in maniera omogenea e quindi per noi il tema è quello di garantire una fruizione a tutti con dei livelli di ingaggio, diciamo, crescenti a seconda della disponibilità tecnologica che c'è in classe o che c'è a casa. Sì, senti, un libro del genere costa di più? Cioè no, un libro aumentato così? No, è integrato all'offerta adottata. Adesso ci fermiamo per qualche minuto, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, stiamo parlando di educazione, di come si studia e di come, meglio, come si studierà sempre più nei prossimi anni, come si insegnerà nei prossimi anni grazie alla tecnologia. Ci risentiamo tra poco. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, 2024 è radio24.it, è il nostro indirizzo di posta elettronica, potete raggiungerci anche via Facebook oppure Twitter, cercate Enrico Pagliarini oppure 2024. Dunque stiamo parlando di non solo di scuola, ma proprio del modo con cui cambia l'educazione, la formazione, che non riguarda solo i più giovani. Ovviamente quando si parla di formazione spesso viene alla mente la scuola, ma c'è anche tutto un tema di formazione di persone adulte. Anzi, più le cose e più il mondo si complica, più diventa importante la formazione continua. Quante volte si è parlato di questo tema? Sono con noi Karen Naum, che è Digital Director di De Agostini Scuola, e Damien Lanfray, che è Chief Innovation Officer del Ministero dell'Istruzione. Allora, Damien, a proposito di hardware e software, quali sono le cose più interessanti che state vedendo in questi mesi, in questi anni? Io vedo tantissima proliferazione, e questo si lega a un investimento che abbiamo appena fatto 3 giorni fa sul tema creatività, robotica educativa, pensiero computazionale. Tantissime società, come si dice, internazionali, ma anche ci si dà italiane, tantissime società che fanno per esempio piccola robotica educativa o piccola elettronica educativa per i più piccolini, quindi per primaria oppure per scuole medie. Su questo tantissima proliferazione, ovviamente trainata da Lego Education, però con tantissime startup molto interessanti che sviluppano pratiche per noi molto desiderabili, perché sono quelle che poi aiutano, semplificano l'innovazione nella didattica. Noi abbiamo appena fatto un investimento veloce proprio l'altro ieri da 28 milioni di euro su atelier creativi nelle scuole primarie, quindi proprio per fare piccoli Fab Lab in ogni scuola, quindi una versione soft di un Fab Lab in ogni scuola, quindi non solo la stampa 3D ma anche la robotica e l'elettronica educativa. E quindi di fatto sostanzialmente cercheremo un po' anche di trainare questo tipo di innovazione. Quindi a livello hardware questo indubbiamente, perché come si dice, a livello software. Quindi, sempre per concludere il discorso hardware, mi piace questo riferimento al mondo della robotica. Io mi sarei aspettato invece che voi accennaste a tablet, computer. Quelli li diamo quasi per scontati, anche se immagino non siano così diffusi, però l'aspetto innovativo è altro rispetto allo smartphone, sì, al tablet. Sì, e poi dobbiamo considerare anche strategicamente tablet, per esempio, come commodity, e quindi chiaramente sono più l'oggetto normale, personale, e quindi il nostro interesse è in questo caso sviluppare una visione didattica a scuola che permette il bring your own device e che si appoggi sul device personale, sia perché, vuol dire, per noi è più conveniente investire su altre cose che invece altro investimento che risiede, che fa standard, che fa innovazione, rispetto che invece andare su un investimento che ha già una sua natura personale. E secondo, perché per noi è desiderabile questo modello didattico, quindi non l'ho citato in realtà perché per noi quello è più commodity. Sì, ovviamente sì. Tutto quello che in realtà anche lì la tecnologia si sta alleggerendo, quindi sempre di più si passa dalla lavagna interattiva ingombrante a una tecnologia più leggera, quindi più al mirroring, quindi più all'utilizzo smart in diversi ambienti, quindi alla trasferibilità, alla trasportabilità della tecnologia, alla leggerezza. Tutte queste cose unite ovviamente ai contenuti sono un po' più o meno il modello didattico prevalente in questo momento, ma anche, insomma, non lo consideriamo necessariamente innovazione. Adesso noi stiamo facendo investimenti per fare in modo che questo succeda in ogni scuola, quindi per questo noi è un investimento più a tappeto. Sì. Prima di passare al software, Karen voleva dire forse qualcosa sulla robotica? Sul coding in particolare. No, allora, coding è software. Sì. Però tu prima mi hai fatto l'esempio di una startup che fa cose sì, interessanti. È legata anche al coding o alla robotica, sempre per riagganciarmi al tema delle startup e a quello che si diceva che sta succedendo all'estero. Per esempio in America c'è questa startup che poi forse adesso è anche uscita dalla frase proprio di startup, che si chiama Little Bits, che consente ai ragazzi di programmare usando dei kit che sono anche didattici ma sono già diffusi nel mondo consumer, che sta crescendo tantissimo, e questo arriverà anche qua. Questa startup Praticamente produce dei componenti che possono essere programmati in modo diverso per fare degli oggetti di uso comune oppure inventati da ragazzi. E se parliamo invece di ragazzi un po' più grandi, Damien, che cosa succede? Allora, è un po' più, come si dice, frastagliata la questione, perché chiaramente quando andiamo sulla scuola secondaria andiamo su una serie di indirizzi della nostra scuola che sono molto variegati, che vanno dal liceo classico alla meccatronica. Quindi noi non standardizziamo le pratiche in quel senso, facciamo invece investimenti per creare, per trasportare verso l'alto l'innovazione dei rispettivi indirizzi. Quindi tu stai lavorando nel campo moda o nel campo cibo, allora quali pratiche puoi inserire all'interno della normale didattica in campo moda? Allora lì l'investimento più strutturale è su migliorare i laboratori, legare per esempio la stampa 3D al cibo per fare pratiche innovative, oppure altro genere di pratiche innovative. Adesso la stampa 3D è la più facile perché viene semplice vedere un'applicazione nella moda, sempre di più nel cibo o sempre di più in altri campi tecnici, però chiaramente come si dice, inserire pratiche innovative all'interno degli indirizzi caratterizzanti. Poi ovviamente c'è tutto il tema delle piattaforme, quindi non so se mi sposto sul software, però chiaramente sì, la collaborazione, quindi tutta la parte, chiaramente più si va verso i più grandi celli e più la come si dice, la collaborazione più sofisticata, più progettuale e quindi più avanzata avviene su piattaforme online, avviene anche fuori dalla scuola, avviene in diversi momenti, avviene in maniera più asincrona. Noi lì investiamo più sia appunto anche lì rinnovando sostanzialmente la pratica didattica e in particolare laboratoriale, perché è quella su cui fai un po' come si dice, il seme dell'innovazione vera. Poi lavoriamo progettualmente, per esempio stiamo progettando una grossa iniziativa nazionale sul tema imprenditorialità con i principi di cui non posso ancora dire completamente tutto, però con i principali partner del mondo dell'innovazione, e sarà un'iniziativa in cui noi spingeremo al limite i nostri ragazzi a creare soluzioni, start-up, soluzioni d'impresa e a fare innovazione vera. Questo è l'aggancio che tu hai con le scuole secondarie per, come si dice, coltivare l'innovazione sfruttando gli indirizzi che già le scuole hanno. Sì. Karen, a proposito di software, tu hai già accennato, cioè abbiamo già accennato al coding. Allora, intanto spieghiamo di cosa stiamo parlando, perché allora, è una parola inglese, magari sì. Tutti non lo sanno. Allora, il coding sta per pensiero computazionale, cioè la modalità di realizzare delle cose utilizzando il pensiero computazionale, che non vuol dire solo la matematica e l'informatica, ma anche il tema di raccontare una storia usando anche il pensiero computazionale per raccontarla in modo digitale. Quindi, e poi anche la programmazione. E la programmazione, cioè, il tema è come diceva Barack Obama, non esatto. Giocate solo, ma imparate a fare il software, cioè a costruire queste cose. E quindi cose. Attivare i ragazzi. E qui mi riallaccio a quello che diceva prima Damien, stiamo partecipando con il MIUR e CINI a Programma al Futuro, che è un programma che è stato avviato un anno fa circa, che ha già erogato, partendo dalle scuole elementari, un'ora di codice a tutte le scuole e gli insegnanti che ne hanno fatto richiesta tramite dei volontari, e noi come De Agostini insieme ad altre aziende partecipiamo a questo programma e l'abbiamo calato all'interno dei nostri contenuti e vediamo un'ottima risposta. Proprio in questi giorni stiamo sviluppando un programma anche di convegni di matematica per i docenti e poi mi riallaccio anche al tema delle STEM. Cosa sono le STEM? Sono le materie scientifiche, Science, Technology, Engineering e Mathematics, sulle quali stiamo lavorando molto e appunto per portare nella scuola questo concetto di attivare i ragazzi a fare delle cose. Sì. E questo è trasversale, non è legato a una materia in particolare. Sì, voi che cosa fate per agevolare l'abilità alla programmazione, parlando appunto di coding? Allora, partecipiamo a questo programma che è quello che sta portando nelle scuole questo argomento e poi abbiamo portato dentro la nostra didattica con dei supporti per gli insegnanti e poi per gli studenti l'argomento coding, anche se non era ancora nel dettato ministeriale. Sì. Damien, se parliamo di coding, diciamo che cosa si fa e che cosa si può fare? Allora, ad oggi, come diceva Karen, noi abbiamo lanciato l'iniziativa, come si dice, quella più di ingresso, ok? Quindi un'iniziativa che parte da un'ora a 10 ore di codice per tutti i ragazzi della scuola primaria, in particolare per i ragazzi della scuola primaria, ma anche per i ragazzi della scuola media. Chiaramente questa è per noi è solo un'iniziativa di ingresso, un'iniziativa molto importante, che è stata molto bene, che ha coinvolto quasi 1 milione di ragazzi, adesso i numeri sommando l'anno scorso e quest'anno, però l'anno quest'anno non è ancora finito, quindi mi riservo a fine anno di fare il calcolo, però ovviamente adesso stiamo lavorando per costruire il curriculum complessivo, quindi quello che succede dall'inizio fino a, come si dice, a quello che succede alla secondaria. Allora, il percorso d'ingresso è un percorso di gioco educativo sfruttando Angry Birds o Minecraft per fare piccole operazioni sequenziali sfruttando la logica della programmazione e facendo apprendere attraverso il gioco. Poi ovviamente c'è, e su questo stiamo lavorando in questo momento, anche la dimensione creativa della programmazione, quindi più l'utilizzare linguaggi come Scratch, che è un linguaggio open sviluppato dall'MIT, che adesso si appoggia su ogni device, compreso device di robotica educativa, quindi linguaggi più di programmazione in cui si fa leva sulla parte creativa della programmazione, quindi più sulla come si dice, costruire le competenze di programmazione attraverso la progettualità, cioè fai fare qualcosa al robottino, costruisci un percorso, sviluppa una narrativa, oppure non so, sviluppa un disegno dando delle istruzioni a un computer e cose di questo tipo. Queste sono già due fasi di ingresso su cui che si applicano bene a primaria e medie, su cui investiremo in maniera sostanziale, cioè su cui amplieremo il reach sostanzialmente delle iniziative, fondamentalmente appoggiando percorsi formativi per ogni scuola. Programma il futuro è un'iniziativa faro, cioè un'iniziativa in cui, grazie al sostegno anche di partner privati, di volontari, come diceva Karen, abbiamo fatto una sorta di coalizione nazionale a favore della programmazione, che attiveremo anche su altri progetti. Poi ovviamente questa cosa la stiamo cercando di sviluppare su tutto l'arco del curriculum, come un po' ha fatto il governo inglese. Il governo inglese ci ha iniziato a lavorare 4-5 anni fa e ha implementato la cosa l'anno scorso. Noi ci abbiamo iniziato a lavorare l'anno scorso, ma cerchiamo un po' di velocizzare il time to market, come dire, cioè il time to school. Sì, certo. Volevo chiedere a Karen, mi fai degli esempi di quello che voi come editore, ma come dire, questi esempi possono essere poi evocativi di altro che sta succedendo in giro per il mondo, oppure se vuoi puoi fare anche degli esempi di cose che hai visto in tutte le fiere, ai convegni a cui partecipi in giro per il mondo, a proposito di la digitalizzazione della scuola, che ne so, collaborazione, oppure software che poi è un libro che ti fa vedere cose particolari che sul libro non potresti vedere o fare. Allora, parto da quello che stiamo portando avanti noi come editore e poi con qualche esempio evocativo. Allora, esempi semplici, tra studiare il corpo umano su un libro cartaceo e navigare un'applicazione che ti consente di visualizzare il corpo umano navigandoci all'interno e vedendo tutte le singole possibilità e di articolazioni del corpo umano e gli organi, eccetera, è una modalità integrata che stiamo fornendo attraverso i nostri materiali. Poi faccio un riferimento alla primaria, per esempio, stiamo affiancando i sussidiari con delle app, qui torniamo un attimo al coding, dove presentiamo la matematica in un'ottica di gamification, per esempio con Math and Tap, dove il bambino fa delle cose e impara delle cose, attiva delle competenze, piuttosto che le tabelline, piuttosto che imparare i verbi, in un modo, diciamo, più ingaggiato, dopodiché rimane anche coinvolgente, sì, che aiuta l'insegnante a tenere il bambino attaccato, piuttosto che per le lingue abbiamo un'applicazione legata all'utilizzo del vocabolario inglese che praticamente ti si apre ogni volta che tu vuoi aprire lo smartphone e ti fa fare degli esercizi. Questa modalità l'abbiamo sviluppata insieme a una startup che ha sede a Berlino, che si chiama Semper, effettivamente ha delle potenzialità che poi sono dimostrate anche dai big data e dall'algoritmo che sta dietro all'applicazione. E questi sono alcuni degli esempi. Lavoriamo tantissimo con delle startup per accelerare anche l'innovazione. Sì, a proposito di questo, lo dico anche agli ascoltatori, ma lo dico anche a voi. Io nei prossimi, diciamo, mesi, perché visto che facciamo 4 puntate al mese, uno degli obiettivi è anche quello di raccontare quello che sta succedendo nelle scuole attraverso la voce di queste startup. Alcune stanno in altri paesi, sono difficili da raggiungere, ma ci sono anche molti esempi italiani, quindi se volete segnalare anche in modo positivo quello che sta succedendo con un'app, con una startup vera e propria, insomma anche con persone che lavorano all'interno di questo settore. Karen, naturalmente in questo ambito, se parliamo di competenze, c'è tutto il tema delle competenze nella scuola, ma per quanto vi riguarda, per un editore, chiaramente le competenze necessarie per fare questo nuovo tipo di libro sono diverse. Dovete bisogno di programmatori, di grafici, di gente che è capace di fare cose che non servivano per il mondo della carta. Ci sono? E le stiamo costruendo, alcune ci sono, per esempio il team che lavora, nel team che lavora con me abbiamo un user interface design, abbiamo una persona che è molto specializzata nell'ambito video, abbiamo acquisito e portato dentro la casa editrice delle nuove competenze. Nelle redazioni ci sono delle persone che lavorano solo per il digitale, con delle competenze piccatamente digitali. Adesso stiamo affrontando anche il tema video. Per una casa editrice abituata a fare solo carta è un tema, e poi se lo portiamo nell'education richiede anche delle nuove competenze. Sì, dovrete affrontare anche quello della realtà virtuale, per forse. Esempio, sì. Damien, a proposito di collaborazione, quindi del concetto di classe che va al di là della classe fisica. Io immagino che, cioè immagino, sento dire, insomma, che i ragazzi poi utilizzano quello che si utilizza nella vita di tutti i giorni, quindi WhatsApp, Facebook, Dropbox, strumenti che conosciamo. Da questo, beh, intanto se c'è dell'altro, cioè se ci sono cose specifiche per la scuola, però l'ulteriore domanda è, dal punto di vista della sicurezza, si sta pensando a qualche cosa o il fenomeno è troppo disruptive, come si dice, troppo forte, troppo vasto per riuscire a controllare quello che sta succedendo? No, dobbiamo pensarci, non appunto in modo ci stiamo pensando, non in modo preoccupato, ma in modo di chiarire le scuole. Adesso spiego come. Allora, intanto altri strumenti sì, nel senso che è esattamente il mix tra gli strumenti comuni e quotidiani e strumenti nuovi, quindi piattaforme di collaborazione espressamente per la didattica, ce ne sono tantissime, alcune appunto degli stessi editori, altre sviluppate da chi sta facendo azione di piattaforma, altre dei classici player di mercato che già offrono piattaforme, i vari Google e così via. Quindi, come dicevo prima, questo in particolare, l'ambiente delle piattaforme di collaborazione, è uno degli ambienti più frastagliati, cioè dove hai veramente il massimo della varianza, come dire. Adesso altri player si stanno muovendo anche nel senso delle piattaforme, anche italiane, quindi hai una varianza molto ampia e hai una gradazione di tipologia di piattaforme molto ampia, da piattaforme che gestiscono solo contenuti a piattaforme che invece fanno anche l'aspetto social. Quindi questo cosa significa? Che la difficoltà per il docente aumenta 10 volte, sia per il docente nel gestire la classe e sia per la scuola nel gestire l'interazione. La verità è che però le soluzioni ci sono, quindi i migliori docenti e quindi le pratiche che noi vogliamo un po' aiutare a portare in tutte le scuole, i migliori docenti hanno delle modalità didattiche che riescono a costruire bene, come dire, proprio sulla collaborazione, sul lavoro, anche sfruttando gli strumenti. Quindi i migliori docenti sanno usare anche WhatsApp per fare didattica, adesso estremizzando molto il discorso, ma lo fanno per davvero, lo fanno perché hanno capito che quello che succede in questa nuova dinamica tecnologica, in particolare nelle tecnologie personali, non può essere evitato, ma deve essere invece riutilizzato a favore della didattica, e funziona. Chiaramente hai una varianza molto ampia nelle scuole, con scuole che affrontano la questione invece in maniera opposta, cioè vietando il cellulare a scuola o utilizzando altre policy restrittive. Io e in generale quello che uscirà da parte del Ministero siamo più a favore invece di un utilizzo di tutto ciò che c'è a disposizione, e quindi di un'apertura all'utilizzo anche a fini didattici, per esempio del device personale, quindi bring your own device, assolutamente sì. Ovviamente questo richiede un po' di regolamentazione, ma una soluzione stratificata. Per esempio la gestione della rete a scuola è già una parte della soluzione del problema, cioè le scuole di Emilia-Romagna che hanno per esempio la rete della regione Emilia-Romagna data da Lepida hanno già automaticamente delle policy di rete molto ben costruite, che permettono di garantire sicurezza, che magari possono decidere di bloccare certi siti anche in certi momenti della giornata, possono addirittura fare una discriminazione dell'uso di reti in una scuola che ha bambini di 6 anni e bambini di 14 anni, quindi in realtà ci sono, le soluzioni sono un po' nell'intelligenza del sistema. Dall'altra parte le soluzioni sono una buona policy, come fanno i presidi e i docenti bravi, quindi in classe una buona policy sull'uso dell'informazione e sull'uso dei device personali, quindi una policy che sia un po' non restrittiva ma che sia invece produttiva e propositiva, e invece da parte del preside una buona policy sull'utilizzo dei device personali a scuola. Chiaramente c'è anche un aspetto regolatorio, insomma, che va risolto, e che dipenderà invece più da linee guida nostre, quindi noi diremo, soprattutto linee sia di interoperabilità che standard, diremo un po' al mercato come ci aspettiamo che loro si comportino rispetto per esempio ai dati personali dei ragazzi. Sì, questo è un tema molto, molto importante e comunque anche molto interessante. Vorrei concludere con un accenno a donne e tecnologia. Karen, cosa sta sul faro? Fino all'8 aprile c'è una bella iniziativa promossa dalle pari opportunità MIUR e Presidenza del Consiglio, nella quale stiamo collaborando anche noi con De Agostini Scuola, volta a favorire le ragazze nelle materie STEM. Si parte dai parametri OCSE, dove l'Italia non è molto favorita o in ottima posizione, sui temi legati anche ai mestieri del futuro, dove in questo momento la popolazione femminile non ha particolare accesso, che sono quelli che in futuro offriranno più posti di lavoro nell'ambito della programmazione, startup, digitale. Quindi questa è una prima iniziativa di sensibilizzazione che vuole supportare le ragazze poi alla scelta di facoltà come ingegneria e programmazione informatica. Molto bene, io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, Damien Lanfray, che è il Chief Innovation Officer del Ministero dell'Istruzione. Grazie, a presto e buon lavoro. Grazie. E grazie anche a Karen Naum, che è responsabile Digital Director di De Agostini Scuola. A presto e buon lavoro. Grazie. Allora, lo ribadisco, il nostro scopo non era quello di entrare nel dibattito sulla scuola, quindi non scrivetemi dicendo bisogna puntualizzare questo e questo. Il nostro scopo è aprire una finestra dal punto di vista tecnologico per capire che cosa sta succedendo. Poi è vero che ci sono un sacco di problemi di finanziamento, di formazione degli insegnanti, di capacità anche degli insegnanti di adeguarsi al mondo che cambia. Insomma, i problemi sono sicuramente molto complessi, ma vi invito anche a segnalare storie interessanti, anche di startup che cercano di fare prodotti, soluzioni per la scuola che cambia, per il mondo della formazione in generale che cambia, non solo per la scuola. Dunque adesso cambiamo argomento, parliamo di una cosa che potrebbe sembrare complicata ma è molto molto interessante, anche perché apre scenari per i prossimi anni. Gianluca Verin è il CTO di Atonet, l'abbiamo avuto recentemente collegato con noi da Barcellona, ma visto che lo avevo invitato in studio ne approfittiamo della sua presenza perché è qui con noi. Benvenuto a 2024, bentornato 2024 potrei dire. Grazie. Allora, tu sei tornato da un giro attorno al mondo che è partito da Barcellona, perché a Barcellona durante il Mobile World Congress avete vinto uno dei premi e tra l'altro era da molti anni che un'azienda italiana non si aggiudicava questo premio della GSM Association, quindi l'associazione che raccoglie tutta l'industria della telefonia mobile, quindi gli operatori di telefonia, chi produce gli apparati, i terminali, le antenne, le infrastrutture. Insomma, è un premio molto importante. Perché vi hanno premiato? Siamo stati premiati perché l'industria delle telecomunicazioni si sta rendendo conto che il software è sempre più importante. Cioè, mentre è facile per noi comprendere come il software ci ha cambiato la vita, dai computer, dai programmi che usiamo nei cellulari, anche le reti mobili stanno lentamente, ma inesorabilmente, arrivando a diventare software. Cosa vuol dire? Spiegaci, perché se uno può sembrare, uno dice, ma come? Le reti mobili sono fatte di antenne, anzi c'è stato un dibattito di anni sulle antenne, sulla capacità, l'importanza delle antenne. Esatto. Le reti mobili rimarranno le antenne, cioè le antenne sono l'unica cosa che non sparirà. Certo. Tutto il resto, che era fatto da grandi armadi, da switch complessi, tutto questo può sparire. Sparisce e gira, come si dice, in dei computer che possono essere dislocati ovunque. Ovunque. Così come il cloud ha cambiato il settore dell'IT negli ultimi anni, per cui una startup può affittare banda e capacità in Amazon, Microsoft, tutti. Così anche le reti mobili stanno pian pianino disintegrandosi dal punto di vista dell'hardware e diventando software, qualcosa di impalpabile. Ma perché questo è importante? Esatto. Quali sono i vantaggi di questo? È importante perché il software, come sempre ha fatto, abilita e cambia il modo che abbiamo di utilizzare le cose. Perciò una rete mobile, che prima era difficile da costruire e molto rigida, ma è anche molto costosa, sì, sta diventando una cosa che possiamo fare in poco tempo. Da un centro operativo in Italia lo possiamo lanciare una rete in Alaska e, se ci sono le antenne, possiamo sapere che lì dentro lì ci sarà qualcuno che utilizzerà la rete mobile come l'avrebbero utilizzata prima di questa rivoluzione. Cioè il software lo possiamo, come dire, piantare le reti mobili in giro per il mondo utilizzando internet. Quindi tu dici, nel momento in cui abbiamo fatto la rete fisica con le nostre belle antenne in giro per, rimaniamo al nostro territorio, lì là, all'Italia, senza andare troppo in là, senza arrivare all'Alaska, questa rete può crescere, cambiare, trasformarsi senza mandare in giro camion e quindi senza installare nuove infrastrutture. Un po' questo è il concetto. Sì, esattamente. Molto più flessibile, insomma. Esattamente. E questo porta con sé altri benefici. Cioè il fatto che le reti possono diventare condivise, che le reti possono portare dare una qualità di servizio migliore, per esempio. Scusa, quando dici condivise vuol dire che non dovremmo avere quattro reti per quattro operatori, ne basterà una e con il software ci si divide la capacità. Potrebbe essere così, ad esempio. Ma anche potrebbero esserci delle aziende che hanno delle necessità importanti, vedi Enel qui in Italia, per cui la rete di distribuzione ha bisogno di qualità di servizio, ha bisogno che i sensori possano parlarsi tra di loro a velocità elevatissima, in modo da assicurare sempre il servizio. Adesso arriviamo all'Enel, perché voi avete fatto, ed è uno dei, forse anche dei motivi per cui siete stati premiati, comunque è un bel esempio di quello che voi fate. Però volevo fare una parentesi parlando dell'attualità. È tanto vero quello che abbiamo detto, cioè che le reti fisiche, cioè l'infrastruttura, diventa sempre meno importante, è un asset che diventa sempre meno importante, tant'è che tutti gli operatori hanno o stanno o venderanno la propria infrastruttura a società che di fatto si occupano, un po' come è avvenuto nel mondo immobiliare. Le società ad un certo punto hanno venduto gli immobili perché non erano più un asset importante, ci sono società che si occupano solo di quello. Oggi ci sono società che si occupano solo del mantenimento delle infrastrutture fisiche che si trasformeranno in questa logica. Quindi gli operatori si concentrano sul software che poi ha la parte di servizio. Allora, per fare un esempio di quello che sta succedendo, di quello che succederà, voi avete fatto una bella sperimentazione nella centrale elettrica dell'Enel di Brindisi. Che cosa avete combinato? Ma questo è un tipico caso di adozione da parte di Enel, di una grande azienda, di una tecnologia innovativa come la nostra. In questo caso c'era un'esigenza, e l'esigenza era di coprire una centrale in modalità mission critical, cioè questa rete non deve mai andare giù perché ci deve garantire il servizio in ogni momento. Certo. Quindi quello che c'era bisogno di una rete dedicata e c'era bisogno di un accordo con l'operatore mobile per avere le frequenze. Quindi quello che è successo in questo caso, che sta facendo scuola, è proprio la capacità di mettersi d'accordo con H3G e Enel e fare una rete dedicata che possa permettere di monitorare le persone, i sensori e capire cosa sta succedendo in tempo reale all'interno della centrale. Quindi stiamo parlando di Internet of Things, Internet degli oggetti. Esatto. Senti, ma non si poteva fare una rete Wi-Fi? E la rete Wi-Fi è più costosa. È più costosa e non riesce a dare la qualità di servizio che dà una rete LTE. È più costosa perché ha bisogno di portare un sacco di access point e soprattutto non funzionerebbe molto probabilmente perché nelle distese, dove non c'è luoghi non chiusi, all'aperto, il Wi-Fi non si propaga. Mentre l'LTE è una frequenza che viaggia su frequenze ed è una tecnologia che è fatta proprio per girare, per supportare la mobilità. Però la centrale elettrica è chiusa. Non solo, c'è anche la parte fuori. C'è anche una parte. Sì. Quindi la tecnologia LTE, cioè il 4G, quello che noi utilizziamo normalmente, è perfetta per la Internet degli oggetti. Esatto. E in questo caso particolare è stata utilizzata anche una frequenza TDD che non è particolarmente utile di solito o non viene particolarmente utilizzata dall'operatore mobile. E quindi dimostra come riusciamo con la tecnologia giusta a portare un servizio ad alto valore aggiunto utilizzando frequenze che magari non erano utilizzate. Allora, senti, questa cosa è stata fatta, diciamo, in via sperimentale con l'accordo dell'operatore, perché avete utilizzato frequenze licenziate. Gli operatori hanno tutti pagato delle licenze per utilizzare le frequenze 4G o LTE. Però, io l'ho già detto, ne abbiamo già parlato brevemente al 2024, ma vorrei approfondire, c'è un futuro molto interessante, cioè l'idea è utilizzare questa tecnologia molto robusta che garantisce una qualità del servizio molto buona, molto di più rispetto al Wi-Fi, e tutti noi sappiamo benissimo i problemi che abbiamo col Wi-Fi, soprattutto quando ci sono tante reti che si trasferiscono, quando ci sono tante persone. Questa è, insomma, esperienza comune. Allora l'idea è quella di dire: ma la tecnologia 4G è tanto buona, la utilizziamo anche sulle frequenze libere, cioè le stesse frequenze del Wi-Fi. Voi siete l'unica società italiana che partecipa ad un'alleanza che si chiama Multifire, che è stata lanciata dalla Qualcomm, che è il più grande produttore di microchip per la mobilità. Quasi tutti i telefonini hanno un microprocessore di Qualcomm. Spiegaci che cosa succederà. Tra qualche anno succederà appunto quello che hai detto, cioè la possibilità di poter utilizzare le frequenze a 5 GHz e quelle del Wi-Fi per fare una rete LTE privata. Una rete LTE che potrebbe essere privata o pubblica in realtà, cioè quello che permetterà questa rete permetterà a qualcuno di costruirsela e di poter eventualmente condividerla con l'operatore mobile. Tu immaginati, ci sono se andate in montagna, lo sappiamo tutti, insomma, ci sono dei posti che non saranno mai coperti dall'operatore mobile. Allora, se c'è un'entità che decide di coprirlo, questi luoghi per i suoi interessi, potrà anche poi in fondo condividere questo spettro con l'operatore mobile, quindi potrà portare una copertura e un servizio anche agli operatori mobili che magari da soli non sono interessati, ad andare in certi luoghi. Questo è un esempio. L'altro esempio è che sarà possibile per un'azienda farsi la sua rete così come sta facendo Wi-Fi, togliendo tutti gli access point Wi-Fi o integrando gli access point Wi-Fi con questa nuova tecnologia. Poi questo ci porta ad un'altra cosa. Negli Stati Uniti, per esempio, c'è anche la frequenza a 3,5 GHz che è stata allocata a utilizzo shared. Cosa vuol dire? Vuol dire che la frequenza, qualora non sia utilizzata da un incumbent, da un operatore mobile, diciamo, può essere utilizzata da chiunque. In quel caso una persona può farsi, un'azienda può farsi la sua rete privata. Perché è importante questo? Perché poter portare il concetto dell'accesso condiviso fa sì che una risorsa importante come le frequenze, che sono di dominio pubblico e che sono così scarse, che sono state fino adesso una barriera, diciamo, alla creazione di lavoro e di GDP e di cose di innovazione in generale, sì. Possono essere liberate queste frequenze per l'utilizzo più appropriato. Quindi se fondi la tua startup innovativa e in qualche modo troverai mai un modo per capitalizzare queste frequenze, sarai libero di farlo. Sì, ok, mi è chiaro. Posso fare un parallelo? È un po' la stessa cosa che sta avvenendo oggi con la condivisione dei Wi-Fi di alcuni operatori. Alcuni operatori di telefonia hanno offerto ai propri clienti la possibilità di condividere i Wi-Fi, cioè il mio Wi-Fi lo metto in condivisione, in cambio quando io giro per le città posso utilizzare i Wi-Fi degli altri clienti dello stesso operatore. Diciamo, il concetto è sostanzialmente lo stesso, simile, giusto? Sì, sono d'accordo. Questo è, diciamo, il prossimo livello, cioè è il livello è on steroids, diciamolo, cioè è il fatto di poter utilizzare una frequenza che è delle frequenze che sono più appropriate, una tecnologia che è più appropriata. Certo, soprattutto è appropriata alla Internet of Things, cioè se pensiamo che nel futuro ci saranno miliardi di oggetti connessi, dobbiamo avere una roba un po' più robusta del Wi-Fi, questo è un po' il concetto. Sì, lasciami anche dire che questo tipo di sperimentazione è stata fatta per la prima volta al mondo in Italia dal Ministero delle Comunicazioni, noi partecipiamo a questa sperimentazione che è stata lanciata alla fine di Expo. E questo è un esempio, insomma. Dov'è questa rete? Questa rete è a Roma. E quello che si vuole dimostrare con questa rete è come possa utilizzare un tipo di frequenza senza disturbare le altre, in un certo campo, in un certo momento, in una certa area. Quindi ci sono delle complessità che derivano dal fatto che la tua licenza è localizzata per un certo tempo, diciamo, sì. Però questo è la prima volta che viene dimostrato in Italia, siamo contenti di far parte di questo progetto e ecco, speriamo che come sembra l'iniziativa sia diventi su questa rete. Che cosa ci gira, cioè che cosa è collegato a questa rete? Ci sono collegati sensori, ci sono collegate videocamere, c'è collegato telefonini, cioè voglio dire alla fine ormai dati. Sì, nel senso, qualsiasi cosa sono dati, tanto è vero che quando andiamo all'estero ormai è più importante che ci funzioni la mail che... Certo, che la telefonia. Senti, voi avete una collaborazione con Facebook. Che cosa c'entra Facebook con le reti mobili e soprattutto con il software, la tecnologia che fate voi? Sì, ma Facebook ha la visione di portare internet ovunque. Ed è la stessa visione che abbiamo noi. Noi vogliamo connettere persone e cose, dovunque si trovino. E loro hanno la missione, sono dati la missione di portare al prossimo 4 miliardi di abitanti, di individui, internet. Sì, loro per fare usare Facebook, tu per una missione più generale verso l'umanità. Però ognuno fa... Diciamo. Allora, queste sono un po' le male lingue. In realtà, avendoci parlato direttamente, devo dire che genuinamente penso che avranno un giorno un ritorno. Da tutto questo, ma credo che genuinamente ci credano, cioè credano che sia importante che le persone vengano connesse per un motivo abbastanza banale, cioè si è visto che internet porta sviluppo. Lo sviluppo porta persone che sono più contente e ovviamente tutto quanto cresce, cioè c'è una soddisfazione importante nel portare la tecnologia. Che cosa fate con Facebook? abbiamo iniziato questo progetto assieme a loro e a altre aziende, e in cui ci siamo dati l'obiettivo di poter portare internet, il collegamento internet al resto dell'umanità. Noi ci mettiamo la nostra tecnologia, cioè la possibilità, come ti dicevo, di creare reti mobili ovunque in poco tempo e che costino poco. Per esempio, abbiamo portato una rete mobile in Malawi, che è un paese uno dei paesi più poveri in Africa. Sì. Ed era la prima rete mobile LTE. LTE ha portato internet. Quindi questo porta dello sviluppo. Il fatto che siamo riusciti a portare internet in un posto dove la percentuale di persone benestanti è molto bassa, dice del fatto che la tecnologia è buona. Cioè, secondo me, una tecnologia... Certo, che costa poco, tu dici, certo. Ma non solo, anche qualcosa di più, nel senso che la tecnologia, secondo me, è buona tanto in quanto anche riesce ad adattarsi alle esigenze dei più piccoli. Ah, certo. Ma scusa, come avete fatto? E soprattutto non ci sono licenze da comprare in Malawi? Beh, lì ovviamente abbiamo parlato con l'operatore mobile del luogo. Okay. L'operatore mobile del luogo gli è piaciuto un sacco questa nostra iniziativa, la nostra tecnologia, e aveva davanti delle offerte di altre aziende gigantesche. Sì. Che costavano molto, ma molto di più, e che non avrebbe mai potuto permettersi di comprare. Quando è arrivato a noi ha capito che poteva permettersi di comprarle, e noi in un mese dall'ordine abbiamo mandato tutte le cose, e anche i nostri ingegneri. Sì, allora lo dico agli ascoltatori: la prima volta che qualche anno fa ho incontrato Gianluca Verin, lui mi ha detto: guarda, la tale azienda, adesso non voglio citare l'azienda, comunque un grande colosso delle telecomunicazioni internazionale, fa una cosa che noi abbiamo realizzato, ma quella è un container gigantesco che vende alle Nazioni Unite per milioni di dollari. Noi abbiamo fatto la stessa cosa, che è una valigia che costa poco. È ancora così poi il concetto, giusto? Eh sì. Sì, ed è della magia del software. Il software può stare ovunque, e lo puoi portare ovunque, e può abilitare le persone a utilizzare delle cose che non sanno fino in fondo come funzionano. Così come noi non sappiamo la tecnologia che c'è dietro le nostre app, così anche una rete mobile diventerà un'app. Bella questa immagine, eh? La telefonia mobile, cioè la rete mobile diventerà un'app, cioè c'è l'antenna, ma tutto quello che sta dietro diventa molto più semplice, molto più fluido, molto più leggero e meno costoso. Esatto. Grazie e buon lavoro, in bocca al lupo, a presto. Grazie a voi. Adesso parliamo di e-commerce e di security, della sicurezza nel commercio elettronico. Allora, per quanto riguarda gli utenti, tutto è molto molto sicuro, però ci sono tutta una serie di, chiamiamoli, pericoli, di ombre all'orizzonte che riguardano soprattutto gli operatori del settore. Se ne è parlato al Security Summit che c'è stato a Milano, negli appuntamenti relativi alla sicurezza organizzato dal CLUSIT, che è l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, e Netcom, che è il consorzio del commercio elettronico italiano, ha organizzato un appuntamento, un convegno proprio sulla sicurezza del commercio elettronico. Alcune considerazioni interessanti le abbiamo fatte con Roberto Liscia, che è il presidente di Netcom. Sì, possiamo confermare che anche dai dati e dalle ricerche che abbiamo a livello europeo, l'elemento che maggiormente preoccupa il consumatore oggi è il furto di dati, è il furto di identità, è il furto dei elementi che possono tradursi in frode a suo danno. Possiamo anche dare subito una certezza: il consumatore non corre nessun pericolo, perché comunque l'eventuale frode è garantita, coperta dalle banche e dagli schemi delle carte di credito. Di fatto però, al di là di questo fatto che il consumatore è garantito e quindi la sua percezione di insicurezza è totalmente ingiustificata, è anche vero che la preoccupazione che c'è nel settore, che il furto di dati possa aumentare, traducendosi in un aumento di frodi che non vanno a danno del consumatore ma che vanno a danno dei circuiti bancari delle banche, è in aumento. Perché effettivamente, se le frodi sono un fatto che oggi sull'aspetto del pagamento è totalmente garantito e controllato, è anche vero che le imprese, le aziende che utilizzano molti elementi di collegamento con servizi terzi, e il consumatore che si comporta sempre più utilizzando strumenti vari di accesso, che oggi sono lo smartphone, ieri erano il PC, domani saranno la web TV, in realtà aumentano la potenzialità per i sistemi fraudolenti di appropriarsi di dati che possono essere utilizzati utilizzando strumenti anche particolarmente intelligenti come i big data, i sistemi predittivi come fanno le grandi imprese, di in qualche misura facilitare la creazione di gruppi criminali che utilizzano le stesse tecniche organizzative delle imprese che vogliono vendere meglio da parte di gruppi che possono utilizzare le stesse tecniche per diventare strumenti e imprese fraudolente. Questo fatto, in qualche misura, che è percepito dal consumatore in maniera sbagliata perché percepisce un rischio che non corre, ma in maniera corretta perché effettivamente la creazione di grandi banche dati fraudolente che possono tradursi poi in comportamenti da parte delle imprese criminali nel ricercare di entrare nei sistemi di sicurezza per appropriarsi non solo di questi dati ma per utilizzarli per attività di acquisto non giustificato e criminale, effettivamente è va ad aumentare come fenomeno, ed è un fenomeno che a mio giudizio può rappresentare in futuro un rischio molto forte per quanto riguarda il furto dell'identità elettronica del cliente, dell'utente, del cittadino. Allora, rimanendo al pagamento, io sono convintissimo, oltre che vedendo anche i vostri dati, insomma, mi convinco sempre di più, ma a proposito di numeri e di dati, diciamo quanto valgono le frodi sui pagamenti? Sono sostanzialmente irrilevanti, oltre al fatto che appunto io non corro nessun rischio. Confermo, le frodi online sono in Italia lo 0,12%, quindi vicino allo zero. A livello europeo sono lo 0,53%, ancora vicino allo zero, quindi le frodi sui pagamenti sono molto molto basse. Ecco, invece l'altro aspetto che tu sottolineavi deve preoccupare un po' più gli esercenti, che si devono dotare di strumenti, di competenze, di accordi con aziende, anche di cultura. Del resto il Clusit e Netcom fanno sostanzialmente cultura ed educazione. Mi sembra di aver capito che il rischio è che ci siano tanti dati dei consumatori online che vengono raccolti in tantissimi modi, e questi dati possono venire utilizzati da gruppi criminali per fare degli acquisti sembrando il consumatore vero e proprio. Quindi potrebbero raccogliere dati di me facendo finta di essere Enrico Paglierini, e quindi il sistema non si accorgerebbe quasi di nulla. Questo è il vero pericolo. Il vero pericolo della società contemporanea, del mondo digitale, è quello che possiamo riassumere nella parola il furto di identità elettronica, il furto dell'identità digitale. E questo furto non sta soltanto nel fatto che ci si appropria di dati anagrafici dell'utente, ma ci si appropria con diverse fonti dei suoi comportamenti, delle sue abitudini, e questo è l'elemento più difficile da contrastare, perché quando io mi posso comportare quasi in maniera cibernetica, come se fossi in qualche misura un clone dell'eventuale consumatore, poi i sistemi di difesa devono aumentare la propria sofisticatezza per in qualche misura riuscire a prevenire, a combattere e in qualche misura a impedire questo comportamento. Nel pagamento, un elemento che vale la pena di ricordare, che anche sui pagamenti che sono bassissimi si riscontrano delle differenze molto forti tra le frodi che ci sono tra le carte di credito e le frodi che ci sono invece nei sistemi di pagamenti basati su sistemi di home banking, quando il pagamento viene fatto per esempio con un bonifico online. E quindi diciamo che sia i sistemi bancari sia i sistemi delle imprese stanno reagendo, costruendosi i propri anticorpi. Una cosa da rilevare è che dal nostro osservatorio risulta anche che c'è una differenza di sicurezza tra le piccole imprese e le grandi imprese, nel senso che ovviamente le piccole imprese sono un pochettino più indifese perché non riescono a costruire quelle barriere, quei sistemi di controllo e soprattutto quelle competenze, non riescono ad appropriarsi di quello che serve in termini di processo e di competenze per contrastare un'evoluzione che nel mondo digitale vede, come in tutti i mondi, da sempre, anche in quello reale, il bene e il male, anche il male si sa organizzare. E quindi l'invito è in qualche misura di aumentare la sensibilità delle imprese, la sua sua in qualche misura capacità di reagire, la sua capacità di gestire processi, culture e anche norme, e quindi adeguarsi anche alle norme che sono importanti. Per esempio, recentemente è stato cancellato l'accordo di Safe Harbor, per esempio, che prevede che i dati dei clienti possano essere messi semplicemente, secondo lo schema di Safe Harbor, su gestione di dati che stanno in altri paesi, in America o da altre parti. Quindi, per esempio, questo fatto qui che questi dati nostri e dei nostri consumatori viaggiano nell'ecosfera, nella blogosfera, senza nessun controllo, è sicuramente un elemento di rischio ben superiore a quello che finora abbiamo visto sul tema dei pagamenti, che, ripeto, è assolutamente irrisorio oggi. E così concludiamo questa puntata di 2024, come sempre grazie per la vostra attenzione. Una cosa che non ho detto, una considerazione che non ho fatto al termine dell'intervista con Gianluca Verin di Atonet, è che la sperimentazione che sta facendo il Ministero potrà portare a, ad esempio, tra le tante cose, ma questo mi sembra che sia una cosa molto, molto interessante, alla creazione di reti per le forze dell'ordine, per i pompieri, per la protezione civile, per il soccorso alpino, anche in zone dove magari la telefonia mobile non è coperta così bene, ma con la tecnologia tipica della telefonia mobile, con tutta una serie di vantaggi, ad esempio portare internet in maniera molto robusta alle forze dell'ordine. Oggi questo è un problema. Sapete che viene utilizzata una rete che si chiama Tetra, che ormai è una rete concettualmente vecchia, e quindi bisogna fare un passo in avanti. Portare internet alle forze dell'ordine, portare internet in generale a tutte queste infrastrutture e a questi servizi dello Stato in giro per il paese, con anche un vantaggio, cioè quello di utilizzare terminali standard. Perché Tetra, che è una rete dedicata per le forze dell'ordine, utilizza terminali ad hoc. Invece, in questo caso, parlando delle tecnologie che abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato con Gianluca Verini, stiamo parlando di 4G LTE, che sarà 5G, ma uno va in un negozio, in emergenza compra un terminale, uno smartphone che funziona su quella rete. Chiaramente deve essere abilitato alla rete, ma quello è un problema software, no? Quindi tutto molto molto interessante. Dunque, ci risentiamo la prossima settimana. Come sempre, grazie a tutti i nostri ascoltatori che continuano a scriverci e ci raccontano quello che fanno durante l'ascolto di 2024. Devo dire che il 95% fa delle attività, cioè non c'è nessuno che sta in poltrona e ascolta 2024, ma mi sembra anche il bello della radio e dell'audio, cioè ti permette di fare dell'altro oppure di ascoltare mentre ti stai spostando da un luogo ad un altro. Continuate a scriverci 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana.